Ma io penso Dimmi, che il dimmi, diritto d'autore non faccia del dimmi. male, cioè il diritto d'autore in sé per sé è utile perché preserva il lavoro di altri dall'essere, diciamo, copiato. Però è anche vero che è inutile accanirsi su delle persone che alla fine, cioè, prendono il lavoro degli altri ma lo trasformano, cioè, perché alla fine l'arte può prendere spunto anche dall'arte stessa. Quindi non credo che succeda nulla di male. Anzi, è triste vedere che le case discografiche si sostituiscano agli autori stessi perché devono proteggere il loro commercio, perché alla fine purtroppo qua non si tratta più di arte, ma si tratta di industria della musica e quindi praticamente si stanno rubando degli oggetti, un altro poco, a queste case discografiche, perché questi non vendono alla fine arte, vendono delle canzoni di merda fatte da gente come Tiziano Ferro che è più immagine che altro, insomma. E poi il diritto d'autore non preserva solo le canzoni, ma bisogna anche ricordarsi del fatto che sono protetti dal diritto d'autore alcuni marchi registrati, come quello della Coca-Cola, ma ne posso dire miliardi di altri. Questo perché oggigiorno le industrie, le grandi marche, non vendono oggetti che vengono più spesso prodotti nel terzo mondo, ma vendono piuttosto una marca, qualcosa che è intangibile, e quindi usare la marca della Coca-Cola o di qualcos'altro è come derubare dei loro prodotti queste società. E beh, questo, diciamo, è uno dei motivi per cui è molto importante il diritto d'autore. Poi, tra parentesi, non vedo la necessità per la casa discografica di YouTube di accanirsi su questi siti, se non per guadagnare qualche milione di dollari. Perseguendo i Negative Plan nel nostro esempio, diciamo che hanno cercato di impedire che qualcuno possa fare i soldi trasformando una canzone di successo, facendo così una canzone che magari potrebbe attirare perché, diciamo, uno se la sente e dice: ah, questa sarebbe la sigla famosa del Looking for the YouTube, oh, voglio vedere com'è questo fatto. Certo, io non mi andrei a prendere una canzone qualsiasi di Negative Plan, e quindi, diciamo, vogliono magari preservarsi dal fatto che qualcuno possa guadagnare tanto quello che è di loro proprietà. Però io credo che questo però vuol dire che alla fine non c'è più l'arte, ma piuttosto si tratta qua di oggetti e di cose, insomma, di cose materiali, perché l'arte è un patrimonio di tutti, nessuno, non è di nessuno, non è proprietà di nessuno, l'idea non è proprietà di nessuno, è un'assurdità. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da sei morto.